finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. minuti primi. Gli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Si è inceppato un po' tutto, come avrete potuto notare. Comunque, alla fine in qualche maniera ce la si fa sempre. Dicevamo gli 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Da siamo entrati nel 45esimo anno, una vita per Radio Onda Rossa, e una vita che voi tutte e tutti la sostenete a vario titolo, in varia maniera, partecipando. Con il dibattito, con la discussione, con le corrispondenze. Critiche e coi complimenti, ma soprattutto sottoscrivendo per questa emittente. Facendo mai mancare il contributo economico che permette a una radio con comunque un profilo molto basso dal punto di vista dei consumi di denaro, insomma, di comunque mantenersi, appunto, spendendo pochissimo, e perciò il vostro contributo sempre bastato a mantenere questa emittente libera e indipendente. Come fare per continuare a sostenere la radio? www.ondarossa.info è il sito, ci trovate. Ci trovate il tasto, la scritta, come dire, l'ipertesto, contatti e sostieni. Dove potete trovare tutte le informazioni, le modalità con cui poter continuare a sostenere questa radio. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratori 2001. Via dei Volsci 560085, Roma San Lollo. Il sito è anche utile per andare a ritrovare quel che di Salente la radio ha trasmesso e promosso. E quindi ci troverete i redazionali, le corrispondenze, le news, le rassegne stampa e molti dei podcast delle trasmissioni. I contatti della radio, ovviamente, 25o'clock@ondarossa.info per le vostre mail da mandare e da sottoporre alla redazione. I social, su cui la radio è presente. Il contatto telefonico, lo 06 491 750. Non ultimo, anzi per ultimo, la casella di posta elettronica della trasmissione che state ascoltando, cioè 25o'clock@ondarossa.info, 25 scritto a numero, o'clock@ondarossa.info. Vabbè, iniziamo tranquillamente con una traccia e poi vi spieghiamo un po' come va la puntata e come andranno anche le prossime. I come to you by the upper grace, ordained by the cherry paste. For those who sought the other taste, in a cave it all took place. The endless, winless race. Young hustler, don't move so fast. Young hustler, little gotta last. Young hustler, it comes then it goes. Young hustler, best slow your roll, man. Young hustler, matriculate. Young hustler, life's more than cake, boy. Young hustler, mind motivate. Young hustler, don't steal your fate. Young hustler, street sing, a sweet lullaby. Fast life, flow fly, stay high. Chance take, pledge cake, bitch take. Flex cheese, take squeeze, dodge these. The only way orders maintain through honor. Rule breakers still under rules operate. Issue built for the weight of these moves undertook. A fall like a cake when the oven start to cook. Was it a fad or a mood, just a look? Ain't no such thing as halfway crooks. Lush pushed out past the edge of my dreams. Log on forever, dope fiend, swiping screens. Lightbox reflex and froze like a meme. Moonlit meetups, the cold is extreme. Devil dancing, death romance and ice glances. Product placement, slowly racing, dipping out the basement with the A1. Till the day's done, first the blaze swung, then the case spun. Young hustler. So fast, young hustler, little gotta last. Young hustler, it comes then it goes. Young hustler, best. Bad turn bad when the dragnet snag. Evaporated up in smoke, gone in a flash. Bloodshot eyes, glare beams out the mask. Cognac splash for the ones that ain't last. Money, not the domain of the bliss. Cash is the disc, gets sealed with a kiss. Fortune, it favors the bold. Scorched them, left his body cold. Broke the mold, break the gold. Stack the fold, pressure overload. Adhere, beware, the dark cold, young hustler. Big bus sirens is in stereo. Float the op block and then clear it out. Young hunko, green jewels look like cereal. Bylaw, secret rules is all myriad. Scuffing drums, crushing crumbs, touching sums. Take it how it comes, going dumb, money sprung, young hustler. We'll be right back. Yoda Libra Nida Matu Kanu Mayoka Ete Ijamara Matu Minti Buti Vi Tranquiliza Mabugi Alegre Mabugi. 23:06 minuti primi, quindi abbiamo ascoltato dall'ultimo album in studio per quanto riguarda Battles. Juice B. Crips. La ottava traccia, che prendeva il nome di IZM, con Shebats Palace. Iniziamo con un triste ricordo a cui ci vogliamo associare, non tanto per una conoscenza diretta che non mi vanto di avere, non ci vantiamo di avere, ma comunque per una così complementarità, almeno per un certo periodo della vita, con l'ambiente, con la zona in cui viveva. Il nostro saluto va a Emilia Locca. Come alcuni hanno scritto, un pezzo del quartiere di Primavalle, insomma, ci siamo trovati per molti anni da parti opposte della barricata, in realtà. Ma insomma, ecco, bisogna così rendere omaggio a quegli anni e a quelle figure. Comunque, in ogni caso, non riducibili, insomma, senz'altro un'onestà, come si dice, non comune in questi giorni, in questi tempi. E un abbraccio va quindi al figlio Massimiliano e a Rita, la figlia. Con cui abbiamo più volte incrociato percorsi di vita e politici. Insomma, questo era il nostro piccolo ricordo che ci sentivamo rifare. Ma Nel frattempo le nostre parole vanno sopra il tappeto di Zoo. E del loro futuro remoto. Dicevamo, vi spieghiamo un attimo come girerà la puntata molto facilmente, cioè c'è un file da 55 minuti che finalmente siamo riusciti a preparare, a confezionare preventivamente e a concludere. Chi ci collabora, veramente un mondo di suggestioni sconclusionate. Però così, non sono dei lavoretti di decoupage, come dire, di acchittamento, di manipolazione, sarebbe il termine antisonante per definirli. Ma senza lo stimolo di, proprio in queste puntate, di Velester innanzitutto, che ritorna di tanto in tanto, e della morte, il progetto che abbiamo presentato così sommariamente lo scorso mercoledì, iper produttivo, ci ha mandato alcuni demo, ecco, alcuni file, alcune tracce, alcuni pezzi, alcune composizioni. Però appunto in versione lo-fi, così appena acchittata. E poi un'altra grande, al di là di come ognuno la voglia pensare, della cinematografia italiana del XX secolo, che se ne è andata, insomma, la Monica Vitti. E poi l'abbrutimento, sì, ineludibile probabilmente in questi tempi di enormi, grandi, progressivi, ma nemmeno tanto, cambiamenti. E di qui appunto il futuro remoto degli Zoo, questa tribalità. Forse anche antropologicamente saggia. E quindi ne è venuto fuori il post-core dell'Hat Trip Virus. Esattezza 56 minuti e 28 secondi. Abbassate perciò le tapparelle, chiudete le persiane, abbassate le luci, anche al buio va benissimo. Ma ancora più indicata sarebbe una luce appena percepibile, magari anche una lampadina fulminata, mezza rotta, che manda dei lampi. Per quanto riguarda sostanze che aiutano la trance, fate come vi pare, fate voi. Introduciamo con altrettanti scimmioni, dicevamo, sempre uno dei temi del trip virus sarà la scimmia nuda. Quel che c'è probabilmente per noi bipedi alla base di tutto. Al di là di ogni ipocrita illusione. Saranno i tre scimmioni che prendevano e prendono il nome di Malclango. Una manciata di anni fa usciva questo lavoro. Che si chiamava appunto Malclango. Ascoltiamo la terza traccia, Ostro, e poi si parte. Col post core de latta Trip Virus. Noi ci risentiamo alla fine. Per alcune tracce d'obbligo e i saluti finali. Quindi Malclango, Ostro e post core de latta Trip Virus. imbarchi i cavalli. Viaggiano le auto di soccorso, ma più prudente è la barca. L'usoria pace è subentrata alla furia. Chi se ne fida? Meglio salvare le suppellettili, meglio soprattutto salvare le vite, specialmente le più indifese. Tra questa gente sbigottita circola la notizia che una frana ha travolto due case. 7 morti, di cui 5 bambini. Un fiore emerso fa tremare come un presagio di tomba. Questo vento tira borse nelle vie ghiacciate delle città canadesi. Una buriana che alza di peso e combina i più irresistibili sgambetti. Non si cammina più, si corre. Annuncio, ci vado io. Annuncio di chi? Sì, Sarti Maria, di Roma. Peso 60 kg, altezza 1,70, dalla prosa al varietà. Tiene mutande. Ma Maria, queste cose tu non le puoi fare, tu non hai provato. E fammici pure provare. Vai! Ma Maria, non si possono fare queste cose. E vai! Signore e signori, buonasera! Segatura per il signore! Dopo il felice debutto di poco fa, il teatro vi offre un'altra sorpresa! Il debutto di una celebre artista di prosa, che per passione e slancio Fettigna! Per chi osava, si è decisa a darsi al varietà! Ed ora, signore e signori, la celebre attrice ed artista Maria Sarti da Roma! Mica quella di prima. A campo stai meglio. Il signore nella posizione giusta. Hai visto? Quando fai il movimento giusto il popolo sta zitto. Ma se lo sapete voi. Parliamone. Con discrezione.

hanno lavato via il sangue, ma il sangue è ancora lì. Tra le macchine in sosta in un mondo largo di chilometri, vicino a casa tua, ma non può essere vero, non può essere vero. E se fosse tuo figlio, se fosse tuo figlio, dimmi, o guardalo bene negli occhi, se fosse figlio tuo. Non dormiresti più, madre. Dopo la mezzanotte, 20 secondi per l'esattezza, dagli studi di Radio Onda Rossa, 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Ora stanno dormendo in tutto. E Pat ci ha così riavverto i microfoni. Corre nelle loro vene. Entro l'inverno costruiranno il Luna Park. Dopo il lungo post corre latta trip virus, qualcosa che non va. E hanno trovato il sangue che il Claudio aveva addosso quando ha passato il confine. Fatta dall'ultimo lavoro monostereo uscito per la pulizia a fine novembre del 2021, abbiamo ascoltato Madre. Mani così dure da graffiare i bicchieri, è legno spaccato e sangue come tutte le sere. Qualcuno sputa a terra e fa pezzo. E quindi tante domande, sì. È quella della donna. Tante domande riguardo i ragionamenti che facciamo, le conclusioni a cui arriviamo. Nella città dei fantasmi, nella città dei fantasmi. Poi poche domande invece riguardo quello che viviamo tutti i giorni. Di una brutalità sempre maggiore che esiste nel, di una violenza proprio nei rapporti sociali e fra le persone. Dicevamo da un po' di settimane, però così ci salviamo in calcio d'angolo. Con i cantastorie, con coloro che ci raccontano quel che vedono, cronisti di una strana epoca e di una strana epica, 60 euro che non viene mai raccontata per tre ore buone, o che viene raccontata attraverso gli stereotipi. Ma cantare canta bene. E questa non è America. E quindi scendiamo di latitudine e andiamo fino a Cosenza. Maximilian D, Caronte Blue Session. E questo è Glass of Beer.

a dire il vero, benché sia nuovo, non è che ci piace poi così tanto. Ma questo non vuol dire che il mondo vecchio ci piacesse. Fatto sta che, insomma, questa traccia in particolare è stata un po' rimaneggiata dalla edizione che avevate sentito durante la presentazione in quel di settembre di questo lavoro, che appunto i 30 anni di P38 Punk, rimaneggiata così anche su modestissimo nostro così contributo. Questa è la versione, vedete, che saltella. Ci riproviamo a mandarla a capo, dai, Onda Rossa, 25 o'clock. dicevamo appunto che probabilmente il lettore DCD invidioso del della modalità così di esprimere sonorità nei Trip Virus ha voluto fare anche lui il suo missaggio. ...42 minuti dopo la mezzanotte vi lasciamo, sì. Vi lasciamo in compagnia della, della compagna automatica Sonata. Non prima di avervi ricordato di continuare a contribuire per Radio Onda Rossa www.ondarossa.info, il sito, andate su Sostieni, ci troverete tutte le modalità per mantenere questa radio. Una radio dove il dibattito continua a essere aperto. Dicevamo, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata che proporrà le sue repliche e le sue repliche, le sue selezioni musicali per tutta la notte fino alle 8 di stamattina ormai, quando si riprenderà con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina. Poi una piccola pausa intorno all'ora di pranzo, si riprende dalle 14 alle 15 con tutta scena cinema. Alle 16 Attica Blues, oltre alla Black Music, alle 17 Le Schiene del Sole, alle 20 e 15 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, e alle 22 I Cuginetti di Apostasia, Bella Paizo, Bella Fongis. Il nostro saluto più importante ovviamente va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti. Ancora poi persecuzioni poliziesche e amministrative che sembrano metastaticamente invadere ogni pezzetto della nostra società. Obblighi, divieti, confini. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Tra l'altro il CD, c'è anche il lettore CDJ, ci ha anche dato la grazia di volerla trasmettere. Ah, ci eravamo dimenticati, sì, puntata diciamo doppia mercoledì prossimo, questa era importante da dire, sì, perché insomma per chi non per chi è più giovane. Diciamo, questo spazio che state ascoltando, 25 O'Clock, è in qualche maniera la prosecuzione, l'eredità di un altro spazio radiofonico che è durato molto tempo, anche quello. Da poco prima della metà degli anni 80 fino al 2002 ne erano parte diversi redattori. Noi abbiamo preso parte dalla fine, dagli inizi, dalla fine degli anni 80, inizi anni 90. Un progetto che si chiamava Next Time, che era stato così, era nato grazie all'idea e all'intuizione di un paio di compagni, prima poi tre, poi quattro, poi parecchi compagni e compagne che bazzicavano questi studi. Nel 2002 Roberto Massi Patata ci ha lasciato e così anche il progetto. The Next Time è andato e si è andato esaurendo con la sua figura. Nel 2002 è partito invece 25 O'Clock, e che quindi quest'anno, all'incirca a settembre, compirà 20 anni. Ecco, con un po' di redattori della vecchia Next Time ci piace di ricordare Roberto Patata. Lo facciamo ogni anno, l'altro anno non è potuto ovviamente andare in onda questa reunion classica. Ormai divenuta classica per gli ovvi problemi dovuti al lockdown, e quindi quest'anno riprendiamo. Per respirare quelle atmosfere, quelle idee, quelle sensazioni che comunque continuano a pervaderci malgrado che ormai siamo vecchi stuzzi, come ama dire il buon Caronte. E quindi a mercoledì prossimo si farà una intro dalle 20 alle 21 e poi 22:30 fino a una certa, poi finiremo per sfinimento, per fatica e appunto per la vetustà delle membra. Dai a tutti, quindi bella così, ci sentiamo appunto con la doppia puntata mercoledì prossimo, 16 di febbraio. Dai. comes comes radical minds. I'll share our dreams under a communist moon.